dice il motto, se fa una conca, non la denuncia. Se è un omicidio, sono entrato da papà con un caffè, poi ha già solo la buffa, mi sa. Mi sono girato, ha fatto qui, ha fatto dove, chiamato Marcia, che andava a prendere un caffè, eh? Ha fatto che non hai cosa, ha fatto poi vedi se imbatto di quello che ha fatto la conca, ha fatto, ma con crepa, che se che ne sono fatti pagare, sapere se vai mai con. Ma poi se c'era mia, ha fatto un mordello ridici. Uno che fa, uno gli cade a fare se sono figli di attacco, lo capito? È inutile. Ma, e voglio dire, ma, quando ne fanno con uno, oh, dai, dai, non lo conosciamo, non ci bimo a te, se no, certo. Aspetta, allora mai ti offro il caffè, sì. Ah, dai via! Beh, ma ripaga anche mio, come un centesimo, ma chi mi sta andando a carreggiare, e paga voi. A tutto ho potuto acciappare e mi ha fatto pagare a mia Mattessi. A tutto lo dà mai in aria. Oh, da Luido, chi devo furiare, a chi che altri chiusi lo dà mai in aria. Ah, può fare capire di ficcia sul caffè e da voi che la va a pagare l'uso. Ma tu a te l'immagina? Io sono in pizza, ma è tua paga, sei compreso? No, ma no, che mi da Parizzo, compreso, vai a Mari. Quando lo manzano mi dica, ma è... Quando lo manzano, vabbè, come capitare, lo manzano, sono entrato. Quando lo paga sul caffè, se l'ha pagato un battolo. Se in casa mi viene sul caffè, non si era manco breva. Se in casa allora, ha presentato che ne sono vestito, so. Sono entrato da papà un caffè, la cosa c'ho la buffa, mi ha preso, ha morto male, quando sono tutto retto, le sezioni che vince a caricuno, si interessa una parte con caputo e le sezioni di Terzo Rico. E è bene, mi sono questa persona già, e ci sono aziende che come ti fa ieri, capito? Avevo che ti vinto il caffè, gatta, per l'occhio, mara, oh, mi cavo sempre cai, in Naija che ha tu guardare che ha fatti no ha pensato di usare per tanto si fa a brutta figura però ma a su base non gli utilizzare non vince nulla nulla manca appena così che non che tu fai brutta figura se hai capito la tizia sarà che di fare caffè invece da voi a che paga tu a me e se non gli fai denare come ti fai come ti sono passato io Mari. Il primo, che sa cosa comunque, ma la gente che non manda io da sciubare. Mi dai ad uno sciubo di birra, in cui è stato bene. E io te non aveva passato un amico, poi ho visto una cosa. Si è pensato, ma poi c'è buco, che birra, no? C'è una birra. Tutto a me, non so isso. Chi attacca noi di gusto, non prende sa birra, poi c'è la parte. C'è la che cugina, che non sa prende birra. Ha passato la conca a punato, grazie, perché tu fai una sua sorella, ma non la cureva, a punato. E io ho fatto delle profittate e ho fatto la sabbia mia. Ha provato una chiappa di cui ha provato la campulla come stesse, e si è andata lì, la palla di una sua e anche due, che ha della oca. Comunque la sabbia mia, e non sapevo cosa matta. Malato, dunque, ogni maniera si una chiappa a casa. Ma avevo rispetto, non ho... Se mi capita qualche volta, gai, vabbè, io mi devo caffè mi canto. Ho capito, ma se no non ho vinto le asbarre, è difficile, capito? Difficile mi sbarre, è fico che gai, capito? No, mi piace. Prima di tutto volevo solo sul caffè, non è che andare a birra, né birra né nulla, capito? E quando entro a sbarre mi devo un caffè, muove mi canto. Invece mi dà tanto, so chi cazzo entra, come se la può fare, cazzo, non la fine in gai, non la fine in gai, capito? A me quando la gente si comporta in un certo modo, vai, non mi piace, allora che cosa devi cantare, devo pensare e basta, capito? Non mando, ecco. Se c'è a volte un caffè, me lo buffo in domo. Però, ripeto, può capitare, entro, mi dà un caffè, me la fio subito, capito? Ma bicciare cai, prima ancora, no, va, facendo, so, no, comando vero, comandanissimo, capito? per cui bisogna evitare. Se sono attesa, la farmacia c'è un bar, secondo la terza cappa sa, cazzo, ma per aula, come se non è possibile, non è possibile. Dai, cioè, dai, alle cazzo boccia parola, dice, ah, cai ora che ho fatto, abbiamo fuori non che deve essere in domo, sa cosa, la che si può fare, non vado sul mar, a me è sul mar, mi piace, la barrare non vado. Andare a la vita, ma te se no, c'è la boccia già, ehi, cazzo, ma cai un attimo, avviciniamo su quel, no, no, devo subare un banno, no, no, no, no, no, dice, ma poi picciate il pistone che se la punti, devo lo banno e basta, poi guarda se c'è per accornato mio, no, ogni tanto non lo fai, no, no, no, no, no, basta, buco, anda per i due, no, e tanto mi ha visto Matteo per andare a chi mi lascia assurdo, capito, perché non bandeva mai, ma poi non mi deve andare a subare che lo bando. E vista io sempre, capito? Se non è che si il subare come ti suoni. Allora io mi ricordo, io mi ricordo qui, poi, catta, non ho più di più, cioè, ma è forza di fare a buffare, tanto mi mettono a entrare. Un anno io e Maria sono mettato a imbattere il subare. Ognuno voglia se chi lo sono, arrivi da sushi, beh, io sono andato a chi ha un appuntamento dove per le gente con una casa, una ossa, due borsa, tre borsa, quattro borsa, che ne ho casa. Una salia è capitato, entriamo su, prendiamo la birra, certo, e lo ha pagato. Tanto mi sono avuto di accordo con Subarizza, lei Subarizza, no, questa birra, la cosa deve pagare 2.000. No, ma lei un attimo, no, no, no, paga questa birra, e ce l'ha culo. Va, sono lì, non ho potuto permettere, dai, che questo faccio, ma poi magari, allora, prima magari mi traia e fai la compagnia, ma questo tempo sono finito, lì, no, no, è inutile, no, non manda, non manda. Cado qui travagliente, è chiaro che capita su serio, quando i simili la chioccia, e la cara non famo su una cosa, però avevo birro, birro raramente, raramente, no, non mandala. Un caffè le porto la pronta 7-8, ma altra cosa no, roba alcolica no, assolutamente. Cacchiotta, ma di che ne magari quando fa che mi si andiamo a mese a pranzo, guai, non fare, danno magari anche l'attino, la buffaia, però, ripeto, andiamo a mandicare, non fare, che si chiama la stessa cosa, me la buffaia. Ma adesso riesco, no, proprio, è difficile, capito? Prima sì, ma come no? Oh, ya, yeah, non mi piace, te. E poi no, non buffo, non buffo. Beh, la chiesa su caffè che non c'è troppo, ma caracciata, non è Coca-Cola, e non è buffo, no, non mandata. Ripeto, ci sono in compagnia, magari come c'è cacchiotto non si pizza, anche nare o a buttare, da bisogno, ma se non la sino si veste e me la buffo. Ma una pasta però, no, però andare su bar proprio apposta a buffare, oh ya, yeah, finimi a Tonì, no, non me la metto a andare e non mi piacere. Quando viaggio io a Olbia, sono mancato, prima mi sono levato il caffè, e quindi io a Duoso, e mi sono levato il caffè, si levato il cappuccino e tre passapirumini prima di Gaiano. Mi sa dire che toccava a me a pagare, a parte andare con il cappuccino, una catena con il cappuccino, e fine, due cappuccino e tre caffè. Fanno sagace a pagare, fanno una chimbalza, due caffè, un attimo, un cappuccino, una piega, se passa, oh, allora pago una cosa, paga adesso un cappuccino, se passa la pago, non ne pago lei, pago colazione a noi altri. Sul cappuccino mi lo pago, ve lo passa, non ne pago lei, non ne pago più, no. Se passa, ma, e vedo questo pure fa questo travaglio, capito? Sicché, oh no, Tony, no, oh, oddio, poi una volta si può pure fare, si ha questa possibilità se devo fare, poi una volta si può fare, ma se da voi comincia dove? Da voi fare altre vie, da voi fare altre vie ancora, e no, la questione va da più bene, allora vai in questa sola, vai, siamo a raggio io. Ma se vado reso conto, il cappuccino un euro, se passa un euro, nessuno. 8 euro solo in 2 ore. Ma che donna, che mai te l'ha fatto? Ti ha pagato. Ti ha pagato lo cappuccino, ha pagato lo cappuccino sul caffè. Ma che sa cosa passa? Sa passa da un servizio, sa passa te la paga, sa te. Cazzo, ma cosa della compagnia che non te ne pago, passa te. Cazzo, che poi tu l'ha pagato, ho mandicato 8 euro. Ho mandicato, io devo cazzo un euro e devo pagare io. No. Lo cappuccino te lo posso pagare, però la passa poi non te la pago, non te ne pago, passa a bevono. A capita se ci da culo, e se no, a poi dai cominciate, vai come un coglione americano, so. Ognuno si paga su su. Io come la faccia romana, Ah no, ognuno va su su, non stanno bene, ma infatti, praticamente facciava, per cui non... assolutamente, e qui sui connocchiati io vai a gare, è un amico, certo, e batto botte su tisci, però da voi a parlare festa e festa, come le batto la buca, e qui ha parlato che ha saputo che ne è scritto, come dire, ma la faccia più in ponte, non ha che non ha che andiamo su una macchina, non è che cosa, ahi. A prova io. Ah, come andava a buffare? Si ha buffato un guatuino, si ha buffato vermentino me. Ma un guatuino. E da voi che era un'altra cosa, un amaro, non me la mette i servizi. Ma ho fatto apposta, passa ad un amico. Aspetta poi, ma un amico fuori. Mica se siete, ho bisogno di tornare di su. Siamo da la gente, poi tornare a giappare. La cosa figura, ma fai fare qualche... beh, la figura deve fare tu, non devo. Insomma, si è vittato così che... da capo può fare, mi cosa è andato e ti ha pagato. Sì che non mi dovrò a chiamare a andare a buffare, che ho vinto. E capo fatto, non ho bisogno di uscire più con questo. Vado un altro periodo. Non fermiamo nel suo bar a bere, sto manzano, io su caffè, bevi cosa, poi tutte le asse. Attaccando lui da poi tenere un assaggio in asso, appena con un ramazzotti, ma vabbè, e ve l'ha pagato. Se in casa devi pagare io sono se ne fa l'ado. A 7 dias, me ne sono falato da io, me ne sono falato, avevo un caffè e una sigaretta. Allora, su caffè, come pensato io, se vado un ramazzotti era buffato. Ma se lascia pagare, pagato a votare. Ma tu mi devi dare un attimo su caffè, sulla sigaretta, un attimo non ramazzotti. Poi ramazzotti, che l'avevo ordinato. Ma come si accontava con tu meglio? Poi te l'ha parlato a te. E non che su caffè, non che la sigaretta. E tanto. Hai gusto, vieni un'ora a manzano e ti paga a pagare ramazzotti. Su manzano se ne è falato. Invece su barista, ma che se va a pagare un ramazzotti dai... Sono ragazzo a dirmi, non c'è una persona che non si è pagata, non ha posizionato nulla per me, ma quando si lo pago. Beh, infatti, se io te lo pago, che? Marcello, Tony, ma la gente purtroppo vive come Gesù. Purtroppo non, io ripeto, non buffo, per cui alle carte volte mi vita ad andare con le gare, ma no, no, non bienzo perché non. Sì, ma non bienzo, no, posso venire, basta, perché è inutile non portare perché hanno un portare non bienzo. E non vanno proprio apposta per questo motivo, perché non mi viaggia, ecco. Oh, non sono tutto di questa maniera, magari, da gente che mi succudo, che pensano a questa cosa e per cui fa questa cosa come ti deve. Però me la cazzetta è sempre vertente, per cui preferisco di non andare, no, sì, capita, può capitare, dammi un'altra cosa, ma andare apposta, tutti può buffare, no, assolutamente, no. Non mi interessa, capito? E per cui, anzi, devo buffare, buffare oggi, devo già buffare dopo, a fare con il non vi esce e basta. Se la paga bene, perché te l'hanno come? Ho fatto una tre settimane da Hitler di amico mio, sono a soppare a via. E soppare mi viene tagliato uno solo, non mi si asce, abbagliato. Ma, non siamo sette, siamo un po' la prima pizza, appogato, c'è un po' la birra, la dopo due persone, poi non mi dai gusto, pure la tecchia, dico, fai a bini. Cazzo, ogni giro, quando lo barricci, c'è qua via, c'è un po' la birra e un vino, c'è un po' la birra e un vino, c'è un po' la birra e un vino. Una lei, là, fatelo a birra. Andiamo a pagare, a pagare il suo conto. E l'altro è controllato, la domanda, quando è che è una che vada... 20 in po' pure a che vado a pagare una che 20 in veino, 20 in veino, so. A poi pagare una cosa, a deino, paga anche uno solo, se vi dà posizionato da io. Ma che sa, esatto, che se l'ha può fare? Quando mi sono posizionato uno solo vino, basta. E c'è casa a fare, ogni sera pure a fare uno vino, no. La sa pagare su vino, butta, la paga su, su resta, bisogna la sa, e ce lo paga adesso. A mosso male, sei in casa, vivi su bar, e passando, poi c'è la chiamata, là, ti posso pagare una che senza pagare, la lì non ha, non ha pagato uno, là, e no, uno non ha pagato uno, là, che lo vedano offrito, là, sono stati offrito, dove ti racconto tu? Faccio delle immagini, cioè, ragione, la paga tante rompia, che... la stampa americana ya basta ripeto vuole capitare una ossa vabbè una due persone vabbè però ripeto devo si trasubare intro un miliardo di caffè da voi mi canto ma abitare ora se ora come stesso suo no assolutamente no è da me non mi va ecco c'è poco da fare preferisco di non mi muovere dai domo proprio per per evitare questa cosa perché ormai la cosa la dico e per cui bisogna evitare capito e io quando adesso chiso solo io su bar me lo caffè mi chiesto poi da voi si capita qualcuno chiaro che se mi permetto se mi posso permettere un caffè me lo posso pagare o una di altre cose me la posso pure pagare ma perfetto no già è difficile capito però cazzo se è capitato e l'ha poi fatto ben volentieri magari cagano quella persona che ti sicuro quando si vita da non c'è da eccetera a pagare capito? Ma di nono Tony è sulla farmacia vuoi su bar e ho messo da ciao ti buffa ora tocca entrare ci faccia un po' di vino ai voi se no è che si muoio qui no, ma invita che una parizza di Omarini, invita che sono questa mucca, che gli dice lì si attende, come ti intende, cazzo, no, tutto fatto, vuole pagare la birra, ma se c'è paziente che mi aggrada da pinzolo, c'è paziente che non mi aggrada da trasferire, e questo amico che diceva, non può entrare che sono dentro, ce ne sono impresse, non ho vinto questo paziente che non mi piace. Quindi che ne ho fatto a manco. Poi dico che io prima, Tonino, ho chiamato a casa, abbi una cosa, ma non era il motivo. Va bene, la sua prossima non ti chiamo. Io se presente che non mi dai per il suo bar non vintro. Ma poco chiaro ma sicuro, no. Come ti dico io sono dei curiosi che il sette non è la stata esatta. Come te che ne rapido, viene sa sola. Cazzo. Sacca conca a vedere chi è pesce, ma cureva, vince a scuola e cazzo per giovane fatto, pure un muruino, alla faccia del cuore morano. Tony, poi io su questo tempo, se lo tempo magari messia meta, messia meta, cazzo, alla faccia, fa sempre i giri c'hai mica, e di nare cai, cazzo, ma ti si paga di nare. Però da voi è un bit della questione che come stai a pesare, no, e bisogna evitare questa cosa, che ha proprio fatto, no. No, riesco e basta, ecco, non mi interessa, ecco. E dice, ma no, Peter Parker, la mia impresa sono, andiamo solo, non mi fermo nemmeno, capito? A me è pensare a conosco io come il Gesù, capito? Dice che, ma se persone veramente che conosco, io che si dà il Peter Parker, l'hanno, no, non va un problema, capito? Fatto ciò che devo buffare, mi chiesto, ma ti sei capito, non è che, capito? E via, però il bar no, come faccio a me, ecco, no, già che non posso buffare. E intanto sul bar, già che io non è inutile, non vedo e non viene abitare sul bar, buff, faccio. È buono, no, è. Ma io sono fatto, io sono già. Due sanno che mare che non si può fare, non buffo. Quindi che non mi interessa, non è. Io sono travagliente, ma tanto tipo birra e vino e roba del genere. Ricordavo che. Prova a sozzare, ha provato di nono. E buffo, nono. Da che naro di nono, è nono. Dico, beh, ha fatto il capo passato, quindi che non che so qua che era fatto. Sua figlia su giù, quindi che non è buffo, fatto, non mi interessa, ma non mi perché non che la bibita mi interessa da più di tanto, ma non mi interessa, ma quindi che può fare io, che fare io, me, poi non può le abba, fatto, era buffo, però bibita, non c'è, quindi che no, e dai, no, che hanno fatto su pranzo, alle canta posso mantenere, e vedi, no, non pienso, hanno fatto su pranzo che siamo andati al ristorante, questo non becca, non pienso, io posso maticare a fare 300 di cosa. Pienso, capite voi abbonato, ma che coppa, fatica, fate poi il bicchio male in casa, quindi che, vuol fare male in casa, evito, non pienso, fatemi per la figura e tutto quanto, quindi che, andate io, non pienso, non è nulla, non parte, a casa prossima un attimo ti darà, non è che mi lascio più contento di matrice, poi non mi interessa, a pranzo di un marino bisogna andare, non mi interessa, non ha compreso, porca di è, primo di andare in filia, le altre hanno fatto una iveghe, ma chi già è, dice, non pienso, ma poi mi fate male, non viene con la sigaretta, nulla, andate io, Dio, non pienso, una passata bene che poi chiedete che andare. E poi sono i cui mi devo mantenere, basta. Ma infatti, bisogna fare gare. Bisogna fare gatto lì. Ripeto prima, sì. Saffetta, ecco mentre lì a saffetta pure. Vabbè, una festa che non ho di visitare, capito? Però. Ripeto, lei che 20 anni fa, allora sì, ma come no? Oh, assolutamente no. Per cui dico di evitare, c'è poco da fare, se magari si non buffa soffendene, no, a me di evitare, per cui io canno, no, mica da andare, lo bando e basta, bisogna evitare. E noi c'è né gue né gare. Purtroppo lasciamo a chi devo andare, a chi può bicchiare ora si sciumare, buffende o che declinari e gai, no. Magari a voi ci ricordano in faccia a dei giorni ricordano in faccia, ti ha provocato cuore, ha provocato gai, quindi non ha pagato, capito? Non siete gai, non siete sì. Come quella di è indagato non ha che va a prendere la birra, ha poco vinto. Se vuoi non prendere birra, c'è pure la salsa. Ma che mica pronta, la pago, sei te, ma che birra, poi non devo togliere. E poi no, ma non è passato. Se becca in casa, sono a tesi cose, non è che mi sa birra pronta. Cane, ma come ti rimane in greco, in italiano, dico, poi non può togliere, non è buffo. Mi vedi in carrega per il secondo, però mi vedono un po' di birra sulla salsa. E una che mantiene, la mantiene la ragazza, me la vedi, una che la parte. Ma che è fatto, ma è ancora se richiede che senza potersi lui donarne, non buffa là. Sì, una cosa che mi dimentico, niente di lamentare, no. Così che non mi piace di un marito, non. Ormai, hijo, chi mi fa che male. Non ho fatto avere un effetto né di gana né di nulla, non mi interessa, la bibita come non mi interessa più. E no, è legato. Quando esce un leone, andiamo dentro nel sobbato, o un sugo di frutta, ora si usa con la light, più de gai non posso andare, basta. Ormai serrata, quindi che? Niente alcol. E siamo più bene. Io che aspetto che c'è qualcuno che vuole entrare. Avanti, che vuole entrare. Avanti, brecco. Buongiorno, però non ho capito chi sei, è un po' basso, sei in mezzo al QRM, ti ho sentito. Buongiorno, comunque in compagnia di Tonino Attila e Gian Maria, il loro presente. Avanti. Tonino, lo senti tu? K che lo ascolto. Ciao K2, vi ho sentito per la prima, Non so da dove stai modulando. Agro di Usini. In quale coordinate? Santiago di Otto, per essere nelle coordinate di Usini, in agro di Usini, zona negativa, può essere zona San Fagnolo. Ah, aspetta, l'ho conosciuto già, chi è, vabbè, non faccio nome, vai. Comunque, è un po' basso, a me a momenti arriva, a momenti no, Comunque, buongiorno, K, non mi ricordo più cosa ha detto, ho già riconosciuto chi è. Ok, te li fatti vicino a chi, vai. Chi è, va? Arrecato, K2. Ho detto, sarai nelle coordinate di San Fagnolo. Quella è una zona negativa. Capa di Roggero. Adesso che ci sto andando sotto sotto, mi sembra che lì c'era un vecchio CP che aveva anche un ringhellone che modulava. No, io ho detto, lì in quella zona ce n'era uno che aveva un ringhellone che modulava ed era di Usini, però abitava a Sassari e lavorava al museo. Capa di Roggero, io coordinate cimitero. Ebbene, si vede da lontano l'antenna, no? Non è nascosta da nessuna parte, capito? Vai Gian Maria per K2. Ok, buongiorno K2, ben risentito, È inconfondibile la tua radio, la tua modulazione. Dove vediamo ti trovi oggi che ti sento un po' basso, a livello proprio sotto, come stai dicendo, evidentemente per me sei un po' in zona negativa, stai usando magari qualche antennino per cui arrivi un po' basso da me, in mezzo al QRM, a momenti non riesco a capirti ciò che dici, capito? Magari tu io essendo più vicino riesci a capirti benissimo. Comunque, fa piacere ogni tanto ti affacci, capito Capadù? Ok? Thank you. benissimo, io ne approfitto adesso, ne approfitto che mi stanno chiamando a aiutarla, per cui ne approfitto. Dai, scappa tu. Mi ha fatto piacere, ti ho risentito e sperando di risentirci ancora, in ultime condizioni, però non come adesso, perché a me arrivi, ripeto, a livello di QR, al momento capisco ciò che dice, a momenti no. Ok, buona domenica a te in famiglia e altrettanto a Tonino. Tonino, ciao, buon pranzo e ce ne sentiremo. Vai Tonino, vi ascolto per i saluti e chiudo, vai. Vai Tonino. Ok Gio Maria, allora buona carica anche a te e al tuo correa. Ce le ascoltiamo tutte le prossime. Vai K2. Allora prima di entrare questi gli extraterrestri, i televisori, io a un chilometro di cosa, di circonferenza, e i televisori ballavano da soli. Quindi che ne ho fatto meno e allora l'ho venduto, e ne avevo uno da, che ce l'avevo 25 anni fa e l'ho messo in movimento in questo periodo, anzi per dire che non andava bene, invece ho visto che funziona. E sto usando, c'ho un alimentatore da 32 ampere e uno da 25, c'ho un marino, insomma sto usando l'S9, se lo conosci, e una segretaria da 300 watt, e non ho altro, capito? Tutto lì il mio, tutta la mia stazione è questa qua, zona abbastanza positiva per tutte le zone, mi ascoltano dappertutto, problemi non ne ho. Ciao, allora, buona carica, già ti chiamo, magari faccio chiamare. chiamato su questo canale K2, io a fine carica. Ciao K2. Lara Croft, Lara Croft. Prego. Lara Croft, Lara Croft in linea. Lara Croft. Treno regionale Milano Marittima in partenza dal binario 2. Attendere sul binario 2. Ti avvisano i gentili passeggeri di accomodarsi e allacciare le cinture. Grazie.